La scuola secondaria di secondo grado. La scuola secondaria di secondo grado offre la possibilità di scegliere tra licei, istituti tecnici e istituti professionali. Il liceo dura 5 anni e ha vari indirizzi: classico, scientifico, artistico e linguistico. Alla fine del ciclo di studi, gli studenti affrontano un esame di stato conclusivo, esame di maturità, necessario per cominciare un corso universitario o altri studi di specializzazione. Gli istituti tecnici preparano gli studenti in varie aree di specializzazione, per esempio industriale, commerciale, turistica, agraria. La formazione dura 5 anni. Il biennio prevede lo studio delle materie di carattere generale e il triennio quello delle materie specialistiche. Gli istituti professionali hanno lo scopo di fornire una preparazione in campi come l'agricoltura e l'ambiente, l'industria, l'artigianato, i servizi turistici, i servizi commerciali. Dopo 3 anni lo studente ottiene una qualifica professionale. Se sceglie di continuare, alla fine di altri 2 anni di studio, ottiene il diploma, che dà anche la possibilità di frequentare l'università.